Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Proseguono per ora ancora senza esito le ricerche del 63enne di Tavagnacco caduto nel torrente Cormor nel tentativo di salvare il suo cane. Effettuati sbarramenti per abbassare il livello dell'acqua e agevolare le ricerche. Ancora in primo piano il caso Resinovic dopo la nostra intervista a Claudio Sterpin. L'amico di Liliana dubita che l'assassino della donna fosse solo e il suo consulente dice è necessario cercare il DNA nel guanto rinvenuto sul posto. Dopo la tappa di ieri vinta dal danese Kasper Asgreen sul traguardo della piazza transalpina tra Gorizia e Nova Gorizia, oggi la carovana rosa è ripartita da Fiume Veneto con destinazione Asiago. Questa sera lo Stadio Friuli Ludinese conclude il suo campionato ospitando la Fiorentina con inizio alle 20:45, ma a scuotere l'ambiente è la notizia della cessione del club da parte della famiglia Pozzo a imprenditori statunitensi per più di 150 milioni di euro. Le 12:16 minuti, questi titoli ancora, un buongiorno e una buona domenica da Giorgio Bearz e Lara Zani, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 25 maggio. Cominciamo subito con la cronaca perché proseguono per ora, ma ancora senza esito, le ricerche di un uomo, un 63enne di Tavagnacco, Gianfranco Baldini, il suo nome, caduto nel tardo pomeriggio di ieri nel torrente Cormora, San Gervasio di Carlino, nel tentativo di salvare il suo cane che è stato poi recuperato vivo dai vigili del fuoco. A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni che hanno indicato il luogo esatto in cui l'uomo è stato avvistato per l'ultima volta prima di essere visto travolto dalla corrente e scomparire quindi alla vista. A mettere in difficoltà il tutto un rullo, ossia una zona particolarmente pericolosa dove a causa di sbarramenti artificiali o naturali si genera una forte corrente di ritorno che intrappola persone e oggetti. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco del comando di Udine operano i sommozzatori del nucleo di soccorso subacqueo acquatico del comando di Trieste, due dronisti del nucleo regionale SAPR dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia per la ricerca con i droni, soccorritori fluviali alluvionali di Gorizia e Trieste, due operatori specializzati per la topografia applicata al soccorso di Venezia e Drago, l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia. Effettuati sbarramenti per abbassare il livello dell'acqua e agevolare le ricerche. Sul posto anche il figlio di Baldini in attesa di notizie sul familiare. E c'è stato un principio di incendio poco prima delle 4 di questa notte in un'abitazione in Borgata Englaro nel comune di Paluzza. Le fiamme si sono sviluppate nella mansarda dell'abitazione di una famiglia di 3 persone che comunque non è stata evacuata, anche se i residenti sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale per aver respirato del fumo. Molto limitati i danni alla casa, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e i carabinieri. Ancora in primo piano il caso Resinovic dopo la nostra intervista a Claudio Sterpin. L'amico di Liliana dubita che l'assassino della donna fosse solo e il suo consulente dice è necessario cercare il DNA nel guanto rinvenuto sul posto. Nessun commento sul capo d'imputazione provvisorio, ma la sorpresa di non conoscere gli ulteriori e così certi elementi che abbiano indotto la Procura di Trieste a formulare a carico di Sebastiano Visintin un capo d'imputazione così specifico e dettagliato come quello di omicidio. È questo l'unico commento che hanno rilasciato gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, legali del marito di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu trovato 20 giorni dopo nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Secondo la Pubblico Ministero Ilaria Iozzi, che ha chiesto un incidente probatorio per raccogliere la testimonianza dell'amico della donna, Claudio Sterpin, Resinovic sarebbe morta lo stesso giorno della scomparsa, uccisa dal marito per soffocamento. Proprio in merito all'incidente probatorio, procedura che prevede la raccolta di una prova, in questo caso la testimonianza di Sterpin, in una fase precedente al processo, i legali di Visintin hanno presentato opposizione per due ragioni. La prima, Sterpin non sarebbe un testechiave sul contesto dell'omicidio. La seconda, nella richiesta della procura, lo stato di salute dell'uomo, che rende sarebbe necessario anticipare la sua testimonianza, non è documentato da alcun certificato medico, ma solo da link a sue interviste in cui dichiara di stare poco bene. La prossima settimana, inoltre, gli avvocati di Visintin spiegano che scioglieranno la propria riserva su un altro incidente probatorio, che dovrebbe riguardare la perizia medico-legale, dei nuovi accertamenti genetici e altre perizie già richieste dalla procura. Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alla situazione meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 17 gradi, a Gorizia 20, a Udine 18 gradi e mezzo, a Pordenone 18 gradi. A Tolmezzo 16 gradi, a Forlì di Sopra 14, a Tarvisio 13, a Sappada 9 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 9 gradi. Sul Monte Zoncolan 5 gradi, sul Lussari 4 gradi e 5 decimi. Passando la costa, a Lignano 19 gradi e 5 decimi, a Grado 18 gradi e mezzo. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo poco nuvoloso su pianura e costa, sulla zona montana da variabile a nuvoloso, venti di brezza. E siamo allo sport con il calcio. Questa sera allo Stadio Friuli l'Udinese conclude il suo campionato ospitando la Fiorentina con inizio alle 20:45. Ma a scuotere l'ambiente è soprattutto la notizia della cessione del club da parte della famiglia Pozzo, imprenditori statunitensi, per più di 150 milioni di euro. Manca ancora l'ufficialità, ma l'accordo preliminare sarebbe già stato perfezionato. Un finale di stagione quindi del tutto inaspettato per i tifosi bianconeri e per l'intera città. Scetticismo e dispiacere è la prima reazione di molti tifosi udinesi alla notizia della cessione della squadra bianconera a un fondo americano. A un passo dai 40 anni si può dire che finisce l'era Pozzo e per alcuni è quasi un addio alle radici territoriali della squadra. Si presumeva che almeno certe squadre rimanessero di proprietà, diciamo, italiana o almeno di zona. Siccome essendo una squadra locale, di provincia, qui qua ci si tiene molto perché è sempre stata nel cuore di tutti i friulani. Da tifoso non esperto, però da amante dell'Udinese, però perderebbe una sua caratteristica dal punto di vista emotivo, dico. Mi lascia abbastanza dispiaciuto, devo dire. Ho seguito l'Udinese da quando ero bambino, adesso non la seguo molto più perché ho altri impegni, però ho sempre avuto, insomma, il piacere quando l'Udinese faceva bene, vinceva ed era soprattutto in mano alla proprietà friulana, insomma. Alcuni hanno anche da ridire sul prezzo. Che il prezzo sia un po' basso per vendere una squadra. Io non ho capito se vende tutto qua. Il Milan è valutato 1 miliardo, l'Udinese è una società che sta in A da 30 anni, penso che valga qualcosa di più, ecco. E non sono incoraggianti le esperienze in cui gli americani hanno fatto il loro ingresso nei campionati italiani. Un straniero che prende l'Udinese sarà un bel flop. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket, si spengono le luci sulla stagione della Pallacanestro Trieste e non solo in senso metaforico. Nella sfida numero 4 dei quarti di finale playoff scudetto, Brescia vince per 92-88 al Pallarubini dopo un supplementare e dopo che un lungo blackout elettrico sul 77 pari a un minuto dalla fine dei regolamentari aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Conclusione amara per la squadra di Christian ieri al suo congedo dalla città prima del ritorno negli Stati Uniti. Ciclismo, dopo la tappa di ieri vinta dal danese Kasper Asgreen sul traguardo della piazza transalpina tra Gorizia e Nova Gorizia, oggi la carovana rosa è ripartita da Fiume Veneto con destinazione Asiago. Un evento storico per Fiume Veneto, il comune del Pordenonese ha ospitato per la prima volta una tappa del Giro d'Italia. La festa è culminata con la partenza, ma l'evento ha coinvolto cittadini e amministrazione per 3 giorni. Lo ha dichiarato la sindaca Jessica Canton al via della 15ª tappa che da Fiume Veneto porta ad Asiago. Con i suoi 219 chilometri è la seconda tappa più lunga della 108ª edizione del Giro. In piazza, davanti al Duomo, tantissimi appassionati, residenti, tifosi arrivati dalla Slovenia e molti giovani a caccia di autografi. Tra le autorità presenti anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Alla partenza erano presenti anche Giada Rossi, atleta paralimpica di tennis tavolo residente nella zona, e lo sciatore azzurro Mattia Casse. I fiumani, assiepati anche sui balconi addobbati rigorosamente di rosa, hanno atteso lo start ufficiale dato alle 11:25. Il gruppo ha poi proseguito in direzione Pordenone, guidato dalla maglia rosa il messicano Isaac del Toro. Tutti i protagonisti di questo giro erano presenti ad eccezione dell'italiano Giulio Ciccone, ritiratosi dopo la caduta nel finale della tappa di Gorizia. Le difficoltà non mancheranno nemmeno oggi. A metà percorso i corridori dovranno affrontare la scalata del Monte Grappa, 25 chilometri con una pendenza media del 6%. L'arrivo ad Asiago è previsto dopo le 17. Fiume Veneto, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. E dopo il sorvolo di ieri su Gorizia in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia sulla piazza transalpina, oggi le frecce tricolori si esibiranno a Grado nell'Air Show in programma alle 16. Si svolge oggi la 15ª edizione della Giornata Nazionale dell'Associazione di More Storiche Italiane. Oltre 500 tra ville, palazzi, torri, castelli, alcuni dei quali normalmente chiusi alle visite, sono aperti gratuitamente al pubblico durante la giornata. Seconda giornata oggi per la 32ª edizione di Cantine Aperte, la manifestazione organizzata a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino. In regione aderiscono un'ottantina di cantine che aprono appunto le loro porte per degustazioni e varie iniziative. Ritorna nel weekend la Fiera regionale Olio e dintorni, la kermesse che unisce olivocoltori, paesaggio, enologia, folklore e cultura a Villa Maseri di Oleis di Manzano. Protagonista oggi sarà lo storico Angelo Floramo, che presenterà il suo libro Guida del Friuli per veri friulani alle 17. A Sapori Pro Loco 2025, incontro su ricette della terza terra per un convivio post-antropocentrico dell'artista Tiziana Pers. Alle 18 a Villa Manin di Passariano, aria Io sono Friuli Venezia Giulia, spazio incontri. Sarà l'Ara Pacis di Medea a ospitare oggi Eno Armonie con il concerto dai Queen al volo del Calabrone con il pianista Sebastian Di Bin, accompagnato dalla voce di Radio Rai 3 Guido Barbieri nelle vesti di Eno Relatore, alle 18.30. Le più belle melodie dei Nomadi saranno eseguite oggi a Tolmezzo da alcuni gruppi di artisti al Teatro Candoni alle 18. Tony Capuozzo, affiancato dai cantautori Franco Giordani e Alvise Nodale, presenta Piccole Patrie a Moimacco in Villa dei Claricini d'Orn Pacher alle 18. E alle 12.26 si chiude qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta dalla Razzani e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.